Adesso, giusto? Uscito adesso. Fa parte della collana di psicologia, psicoterapia, psicoanalisi e psicologia analitica. Insomma, tutte cose che a Coxo Spaziale e ai suoi ascoltatori sono più che utili. E molto bene. E un libro con bello, bello grosso, 320 pagine. Sì. Sì. E a cura di Simona Adelaide Martini, che però non ce l'abbiamo. È perché è milanese e ce l'avremo. Ce l'avremo subito dopo questa canzone. Sì. Giusto? Così. Before this went down, we were beautiful. Coxo risponde. Bene, allora siamo qui con Simona Adelaide Martini al telefono da Milano, che ci racconta appunto di che cosa tratta questo libro, il cui sottotitolo dice Il viaggio verso l'esperienza del divenire madre e padre. Simona, dici tutto. Sì, infatti io sarei partita proprio dal sottotitolo, perché in realtà diciamo che ancora più del titolo forse racconta i contenuti del testo e dà il senso del libro. Abbiamo proprio immaginato l'esperienza della genitorialità, del diventare genitori, come un viaggio, e come in ogni viaggio abbiamo pensato di dare una sequenzialità temporale e quindi di strutturare delle tappe cronologiche, anche volendo vedere dal prima fino al dopo, e quindi poi diciamo che la struttura del libro è stata pensata così, è stata pensata per tappe, partendo da un prima, I figli della notte, che è un titolo mutuato da una frase della Silvia Vegetti Sinti, che è Il bambino della notte, quindi il bambino immaginato, idealizzato, con tutte le aspettative che ci sono, il viaggio della gravidanza con tutto ciò che riguarda il rapporto tra il bambino all'interno del grembo materno con la madre e con il mondo esterno, e il dopo, a partire dalla psicologia perinatale e al ruolo del padre e della madre. Dopodiché abbiamo voluto anche in due capitoli, che sono il quinto e il sesto, parlare dei nuovi e diversi accessi alle genitorialità, diversi rispetto a quello tradizionale, e quindi accessi scientifici, che grazie alla scienza diciamo sono possibili, con tutte le anche contraddizioni a volte di queste situazioni. Ecco, questo più o meno è il sunto. Benissimo. L'abstract. Io ti ringrazio. Volevo farti una domanda, ma chi è il target di questo libro? Tutti i genitori, oppure genitori con che sanno già di poter avere delle problematiche, oppure chi? Dimmi tu. No, in realtà anche qui, allora, questo libro è molto particolare per tanti motivi. Uno, anche il fatto di essere stato scritto da 30 professionisti e non tutti psicologi, ma anche avvocati, sociologi, eccetera. L'altro è proprio il target. Abbiamo proprio pensato di, come dire, ampliare il più possibile il target senza però cadere, tra virgolette, in una narrativa troppo divulgativa, troppo magari anche banalità, che va benissimo, nel senso, ci mancherebbe altro, però per noi era molto importante mantenere comunque uno spessore tecnico, bibliografico, scientifico, quindi è una lettura che va benissimo anche agli addetti ai lavori, ma che potesse arrivare anche ai genitori, tutti i genitori, anche chi non è riuscito a diventare genitore o chi non ha scelto nella vita di non essere genitore, perché la genitorialità è comunque, secondo me, una tematica che poi ci riguarda tutti, perché i genitori sono persone con cui abbiamo a che fare tutti i giorni per un motivo o per l'altro, e anche i bambini, i figli, sono figli, io dico sempre, non sono figli. I bambini sono di tutti, dico sempre io, no? Per cui tutti abbiamo un po' la responsabilità di far crescere i bambini, no? Certo, anche perché figli lo siamo stati tutti. E quindi leggerlo forse ci dà dà a tutti qualche informazione in più su questo aspetto, su questi aspetti. Fantastico, io ti ringrazio moltissimo e lascio la parola ai nostri ospiti per il resto della trasmissione. Grazie mille. Grazie. Ciao, a presto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Je t'attendais. Souviens-toi. Sei tornata, sono arrivata, ce l'ho fatta, la giornata più trafficata della mia storia di neopatentata. Lo so, ma funziona così. La prima e l'unica, dalla mattina alla sera, traffico, traffico, tutto il traffico. Ma Coxo 200, quindi, Coxo 200 è tornata? È tornata Maria Letizia Rotolo, sei contenta? Con un libro. Con un librone enorme, bello grosso, in cui si parla di tante cose. L'hai sentita la dottoressa Martini al telefono? No, perché eri nel traffico. Ancora. Sì, però la sentirò tra poco, cioè esatto. Quando mi scarico la puntata che stiamo ascoltando. Che stiamo ascoltando. Ah, che ricordiamo non è in diretta, per cui non messaggiateci, non scriveteci, perché non vi possiamo, di nuovo non vi possiamo rispondere. Chissà quando mai ritorneremo. Comunque. 200° Coxo, però non c'è solo la Maria. No, abbiamo un sacco di gente che ha contribuito. Gli AAVV. Ne abbiamo ben tre, forse tre e mezzo degli AAVV di questo libro. Esatto, e in questo momento tocca a Emanuele Siringardi. Che ci parlerà di... Sì, buonasera. Ciao, buonasera, benvenuto. A te. Io sono qui per parlare, grazie comunque per avermi invitato qui. Grazie a te per essere venuto, ma stiamo scherzando. Il Coxo è ospitale, accoglie, il Coxo vi vuole tutti. Per me è una novità, quindi sono un po' onorato, ecco, di essere qui. E volevo parlare del mio contributo all'interno di questo libro, Psicosociologia della genitorialità, come ha spiegato molto, molto bene la nostra curatrice. Io parlerò sostanzialmente del ruolo che ha il compagno all'interno della famiglia. Per far questo faccio una piccola anticipazione, una piccola digressione su cos'è la gravidanza, perché la gravidanza non è soltanto quella che avviene a livello fisico, somatico, le trasformazioni del proprio corpo, ma la gravidanza avviene anche all'interno della mente, prima di tutto. E per questo possiamo appunto dire che la gravidanza è un evento critico che va affrontato. Va affrontato con una carica di suspense. No, infatti, devo dire che io l'ho affrontato, però da padre non è particolarmente il predicato verbale di questa situazione. Del saggio. Cioè, ci vuole una certa filosofia, no? Lasciamo un po' di suspense, ma. No, adesso ce lo dici, però. Io direi che forse va affrontato anche con l'aiuto di qualcuno, che può essere per esempio il compagno. Sì, cavoli, un figlio da sola non lo farei mai. E tu? No, neanch'io. Tanto poi, tu da solo per me è un po' difficile comunque. Sti compagni tradizionali. Anche per me forse un po' più difficile. Dicevo, può essere affrontato con qualcuno, con un compagno. Ecco, allora qual è il ruolo che può rivestire il compagno? Il papà? Dobbiamo dire subito che è un ruolo che si sta trasformando piano piano. Ormai il ruolo non è come quello di 50 anni fa, per cui il padre prima rivestiva una funzione più di sostegno economico alla famiglia. Adesso piano piano si è avvicinato di più ai propri figli, quindi da esterno è sempre più coinvolto all'interno della famiglia, quindi alleggerisce in un certo senso il carico di lavoro della mamma. E un secondo ruolo del compagno è un ruolo fondamentale, sostanzialmente quello di contenimento delle emozioni che la mamma sta sperimentando durante tutta la gravidanza. Che quale sono si trova... tante estremamente nuove, a quanto mi dicono le amiche che ho anche visto in questi, cioè, ormoni, no? E conseguenze degli ormoni impazziti. Si parla di tristezza, la rabbia, all'ansia, alla fragilità, così papà un momento prima ti ammazza, il secondo dopo è lì che ah no. Vabbè, ma il suo vediamo bello, questi papà disperati. Tu come eri un papà disperato? No, sull'orlo di una crisi di nervi? No, assolutamente per niente, anzi io trovo che quello sia un momento veramente bello. Tu ti guardavi Irena che strippava e dicevi ah guarda che performance. No, era, cioè, ci si sente veramente molto vicini in questo. Anch'io. No, è veramente un bel momento quello in cui appunto senti che il tuo partner ha bisogno di te e tu puoi dargli questi aiuti, insomma, soprattutto a livello psicologico. Non me l'aspettavo al 200° Coxo, vero? Che mi rivelasse questo tuo cocktail sentimentale. Succede. sono umano, sono umano anch'io. No, continuando con questo approfondimento sul ruolo del compagno all'interno della famiglia, io direi che posso parlare del terzo elemento, quando mi riferisco ormai quando il bambino ormai è già nato. Comincio già a essere un po' rompicoglioni. No, non si dice così. Magari piagnucola un po'. Esatto. Quindi possiamo parlare del papà, del compagno, come una parolona, il facilitatore dello sviluppo del bambino. No, è una parolona, sono d'accordo. Quindi un incoraggiamento. Ecco, io vedo più il compagno come una persona che motiva, che incoraggia un po' il bambino a esplorare l'ambiente circostante. Sappiamo che il bambino rimane vicino alla mamma e il papà può aiutare un po' questo svincolo a slegarsi un pochino dalla mamma. Sei stato un facilitatore tu? Sì, mio malgrado, io in realtà scappavo, ma Nicolino continuava a rincorrermi e aggrapparsi a me, per cui sì, devo ammettere di essere stato un facilitatore. O qualcosa del genere, non so, forse un difficoltatore, ho aumentato le difficoltà nella sua vita, magari, non lo so. Ah, ma ce ne sarebbe tantissimo da discutere, mi ha aperto, avrei tantissime domande anche su poi effettivamente queste nuove modalità di istituire, costruire le coppie, le famiglie che ci sono adesso, anche ad esempio conosco persone in cui il ruolo che era dell'uomo il secolo scorso lo ricopre la donna. Il papà sta col bimbo o la bimba, però forse in coda ci avanzerà del tempo, perché noi adesso abbiamo un nuovo coco autore. Certo, dobbiamo chiedere a Sabrina Lattes, che ci ha salutato, no? Sì, perché dobbiamo fare tutto. O toccava a te, non mi ricordo. No, Sabrina, tocca a Sabrina. Tutta una galoppata sulla genitorialità. Sì, quindi così. Mettiamo un branino, così facciamo questo cambio tecnico di microfoni e postazioni. Mettiamo un branino. Mettiamo un branino, è un branone in realtà. E mettiamolo. Ma no, aspetta, mettiamo un... Esatto. Prima branino, poi branone. No, mettiamo un branone, un branone estivo. è che lo devo leggermente introdurre mentre introduciamolo. Introduciamolo, è che bisogna trovarlo. Dunque, questo è un brano estivo di un album che però esce oggi. Che è inverno. Oggi che è inverno. L'album si chiama Cuor di Leone, mm-hmm. L'autore si chiama Leone, mm-hmm. e leggo dal comunicato stampa: il progetto musicale Leone si sviluppa all'interno della cosiddetta musica d'autore, in cui la tradizione italiana, Tenco, Sergio Endrigo, gente così, si innesta con gli chansonnier francesi, prima di arrivare all'epicità di Woodkid e al romanticismo al piano pop dei Coldplay. Il pianoforte, infatti, suonato abilmente da Maurizio Marini, diventa lo strumento principe su cui ruotano sperimentazioni sonore o melodie cantabili che fanno del progetto un mix di modernità e passato. Ad accompagnare la voce di Monteduro e il piano di Marini, i musicisti Manuel Casella alla chitarra, Gianmarco Tomei al basso, Ludovico Lovecchio alla batteria. Cuor di Leone è il primo album del progetto musicale Leone, che è in uscita il 15 dicembre, che se non sbaglio è oggi il 15 dicembre. Oggi è il 15 dicembre. Oggi. E perché domani alle Rane di Testaccio a Roma, nel caso voi ci stiate ascoltando da Roma, cosa abbastanza improbabile, domani c'è proprio un'anteprima dell'album, domani sera, sì, per cui su www.coxospaziale.blogspot.com troverete tutti i dettagli e il link per andarvelo a sentire. Adesso sabato che è domani. Questo è il pezzo, si chiama Un'estate. Un istante fa mi è tolto il fiato, l'avevo un tempo perso già quando mi hai toccato. Ora hai preso tutto ciò che ho e mi hai lasciato senza più respiro neanche per camminare. Così non si fa, anche se così ho la libertà. fuori tutto scorre ed il corpo sembra nuovo fino a toccare il vento, meglio così, con le braccia aperte al tempo ed il cuore sempre pronto ad amare veramente. Un'estate fa mi hai detto via, l'estate fa via da quella casa che mi ha tormentato, quell'estate fa. E ora che son vivo qua ricordo ancora quell'estate fa, gli anni che credevo io veri finora, fino a poco fa. Così non si fa, anche se così ho la libertà, mi sento meglio, di buon umore, sorrido sempre, arrivo a dire meglio così. Quando fuori tutto scorre ed il corpo sembra nuovo fino a toccare il vento, meglio così, con le braccia aperte al tempo ed il cuore sempre pronto ad amare veramente. Così Fedra, dice il nostro caro Leone. Il nostro progetto Leone. Il nostro progetto Cuor di Leone, fantastico. No, è un gran pezzo questo, devo dire, devo fargli complimenti in differita. Ma questa moda di chiamare anche i cantautori che si chiamano così, chiamarli progetto, non è più Leone che canta, ma è il progetto Leone. Cioè, ma sai com'è, è un progetto, cioè voglio dire... Un cantante che diventa una factory. È un po' come... ho sbagliato. Grazie, prego. Ci stava. No, dicevo, sai com'è, ho due player, uno è grande, uno è piccolo. No, dicevo, è un progetto, fare un disco è un progetto, è così come fare un figlio è un progetto. Voglio dire, non è che pam pum pam, oh sì, ma è scappitato un figlio. E cioè, magari quando ne hai cinque, il sesto capita, però se ne hai zero. E pensare che una volta capitava, il secolo scorso. È chiaro. Magari due secoli fa. Sì, no, ma vabbè, ma lasciamo stare il secolo scorso o anche due secoli fa. Ma il 900 ce l'ho affezionata. Non lo so, magari Sabrina vuol parlarci di che cosa hai scritto nel tuo libro, Sabrina? Dell'adozione. Ecco, perfetto. Questo potrebbe essere interessante. Una coppia di miei amici si è appena sposata, appunto, cioè l'anno scorso, appunto, per partire con un progetto di adozione. Sì. Anche quello è un progetto. È certo, è un progetto. Molto pensato, tra l'altro. Sì, pensato, lottato, sudato, atteso. Molto più di un parto naturale, biologico, spesso. Beh, sono paragonabili, ecco. Prima abbiamo parlato di genitorialità intesa come gravidanza, però non è l'unico modo per avere un figlio. Abbiamo detto tutti sono figli, però anche altre modalità di essere figlio e di essere genitore sono appunto quelle dell'adozione. Ho curato questo pezzo dell'adozione assieme a Mauro Favaloro, che saluto. Ciao! Assolutamente, perché è una persona, un pezzo molto importante di questo progetto, parlando di progetti. Perché anche questo libro è un progetto, ovviamente. Un progettone, infatti. Lo sto sfogliando, come sentite, si sente tale e quale. E appunto l'adozione assolutamente è un progetto, una progettualità forse ecco, che implica il lungo termine prima del breve termine, ecco, forse, ecco, questo mi sentivo. E da che aspetto hai osservato questo tema? Siamo partiti dalle difficoltà, diciamo, della fecondazione, quindi dell'infertilità, e quindi la scelta di passare all'adozione dopo magari essere a conoscenza dell'infertilità del padre o della madre, e poi siamo andati sulle specificità della relazione adottiva, quindi intesa non solo come specificità della genitorialità, ma anche come specificità dagli occhi del bambino, l'abbiamo chiamata, quindi dell'essere figli due volte, figli di genitori biologici e poi genitori adottivi. Poi ci siamo occupati delle adozioni difficili, delle cosiddette adozioni difficili, ovvero quando le adozioni non vanno a buon fine. E non a caso è partito la musica di sottofondo dei Ramones, famosi per quel pezzo che si chiamava Beat on the Brat, capito? Colpisci il figlio rompicoglioni con la mazza da baseball. Ecco. Quando le adozioni sono difficili, colpiamo i figli con... Esatto, no, naturalmente no. Scherzo, così come scherzavano i Ramones in quel pezzo, naturalmente. Scusa, ti ho interrotto per... No. E poi lui si è occupato soprattutto dell'affidamento, quindi accoglienza vista non solo come adozione ma anche come affido, di cui si parla veramente poco, però certo. Anzi, l'affido ha molte potenzialità nel diventare genitori, nel senso che a parte che è aperto alle coppie single, cosa che non lo è ancora per le adozioni, e poi ci sono tutta una serie di differenze, ma anche di somiglianze tra... Ma magari un accenno, giusto per avere un orientamento per chi ci ascolta, che magari come me langue un pochino l'argomento, per distinguere un po' le due possibilità. Assolutamente, dunque, nell'adozione bisogna essere attualmente sposati da almeno 3 anni, e ecco, ci sono dei vincoli di età, nel senso tra il bambino e i genitori devono esserci minimo 18 anni di differenza e massimo 45. Per l'affido, e poi ovviamente nell'adozione c'è tutto un percorso con i servizi che riguarda quindi una serie di incontri con psicologi e assistenti sociali, soprattutto. Perché la coppia viene valutata nella relazione con il bimbo o la bimba? Se... Anche prima, ovviamente, okay. Si valuta la storia di lui, la storia di lei, eventuali difficoltà, il grado di rete di parentela che è attorno alla coppia. Perché ovviamente i genitori adottivi sono dei genitori che devono affrontare le difficoltà di un bambino che comunque è stato abbandonato, che devono assumere quel ruolo riparatore, così si chiama. E nel caso dell'adozione, comunque, una volta che il bambino viene adottato, è di fatto tuo figlio e nessuno te lo porta via. Assolutamente, sì, nel caso in cui non subentrino ovviamente delle difficoltà importanti, così questo come non ti possono portare via il figlio biologico, naturalmente se la fai grossa ti possono portare via, se lo picchi con una mazza da baseball te lo possono portare via anche se è adottato. Esatto. No, l'affido invece è ovviamente a breve termine, nel senso che solitamente per 2 anni, poi dipende dalla coppia. Ci sono anche delle coppie che danno disponibilità per un periodo successivo, e lì possono nascere delle difficoltà, soprattutto si affronta anche questo tema, ovvero quello del lutto, della separazione dal bambino affidato. Che Te lo vedi crescere per 2 anni e poi certo. Ciao, salutami. Saluti, baci. Sì, è per questo è importante il pre. Vado da un genitore più ricco o più simpatico. Però ci sono, è importante che i genitori siano consapevoli. Sono cose durissime, sono esperienze durissime, noi stiamo sdrammatizzando, ma presumo, non lo so, io non sono ancora stato abbandonato da nessuno dei miei figli, ma presumo che sia una cosa abbastanza dura. Questo è l'accoglienza in generale. Okay. La cosa importante è che secondo me, è importante sottolineare che quando si parla di accoglienza, si parla sempre dell'accoglienza del bambino, quindi il bambino sia nel percorso adottivo che in quello affidatario, il centro, il focus centrale è quello del bambino, e quindi è la coppia che deve accogliere il bambino e non il bambino che deve soddisfare ad esempio questo bisogno di genitorialità non soddisfatto dei genitori. E questo sia servizi che poi gli enti, ecco, devono tenerlo in considerazione quando accompagnano poi i genitori in questo percorso sicuramente lungo, complicato, ma anche complesso. Anche qui ci avrei tutte le domande del caso, speriamo che rimanga del tempo a chiusura e proseguiamo invece con questa sorta di scrolling molto veloce che generosamente ci stanno regalando di questa raccolta libro. Psicologia della genitorialità. Psicosociologia, ecco, della genitorialità. Io se non faccio la mia gaffina il viaggio verso l'esperienza del divenire madre e padre. Ricordiamolo, Golem Edizione è uscito sabato scorso. 7 dicembre. Non sappiamo più che giorno sia. Nelle edicole torinesi. Ah, fantastico. Letizia, ti chiedo di spostarti in postazione, ecco, forse senza distruggere lo studio, possibilmente. Dai, no, proprio mettere a proprio agio gli ospiti. Sono bravissimo, dire. Bando alle quisquiglie. Io ho una sedia che fa un casino, che altro che quisquiglie. È così che metti a proprio agio gli esatto. ospiti. Esatto. Letizia, di che cosa hai parlato? Io ho parlato di un argomento un po' difficile, cioè di cui si è parlato tanto. Tanto si parla sempre tanto, ma per dare una scientificità e anche un po' di informazioni, e soprattutto dalla parte del bambino, non solo da parte dei genitori. Io mi occupo da anni di procreazione medicalmente assistita dal punto di vista dell'assistenza psicologica, ma in particolar modo di quella eterologa, che non so se sapete la differenza fra quella omologa e eterologa. Adesso ce la dici. Ok, quella omologa riguarda, diciamo, quando i gameti utilizzati sono in vitro, diciamo, molto spesso sono quelli dei genitori biologici, di padre e madre. Eterologa quando i gameti sono esterni alla coppia, possono essere gameti maschili, possono essere ovociti o possono essere entrambi i gameti. E quindi tutto questo, diciamo, questo pone molte tematiche che vanno dal punto di vista etico, dal punto di vista psicologico, legale, eccetera. Una volta questa pratica era in Italia, non era possibile farla. Fino a quando? Fino a pochi anni fa. C'era stato un referendum, mi pare nel 2009, che voleva far sì che con la legge, avevano proposto alcuni legislatori la legge 40, che allora di fatto la fecondazione eterologa non era permessa, però se si andava a votare, se si votava sì, veniva accettata. Non ha votato quasi nessuno e quindi a differenza di quasi tutti gli stati europei, gli Stati Uniti, tantissimi stati, per anni siamo un po' vissuti nell'oscurantismo, e quindi perché questo riguarda soprattutto genitori che hanno problemi di salute, che hanno gravi problemi di salute a livello riproduttivo e che magari non possono adottare per vari motivi. E quindi arrivano a fare a questa scelta con un grande dolore, con un lutto, la mancata genitorialità biologica. Quindi attraverso questo processo, questo lutto, si arriva per tappe. Molto spesso, secondo me, è molto importante una consultazione psicologica in tutto questo, perché è molto difficile, soprattutto per un uomo o per una donna, accettare, no? Anche se ormai lo fanno in tanti. E quindi si parte da questo lutto e si parte da vari percorsi. Quindi ci sono vari percorsi, e soprattutto è molto importante saper gestire le emozioni, di, sia dell'uomo che della donna, della coppia. Ci possono essere anche mamme single, possono essere genitori omosessuali, che non è la GPA. La GPA, la gestazione per altri, è un'altra cosa. Mm-hmm. Anche quella, mi immagino, debba avere grandi quantità di assistenza. Sì. Ma infatti, a proposito di acronimo, perché prima, mentre anticipavi ai tuoi colleghi quello che sarebbe stato il tuo tema, avevi parlato, l'avevi sintetizzato con un acronimo. PMA. PMA. Procreazione medicalmente assistita. Ok, ok. Io ho fatto un po' una ricerca lavorando con alcuni istituti stranieri soprattutto, che si occupano di PMA, quindi, su un campione di donne che ricorrevano all'ovodonazione, ovodonazione di ovociti, perché? Per vari motivi, ecco. E quali sono tutti, qual è l'iter emotivo di delle donne in coppia? Questo campione riguarda donne che sono in coppia, dalla non accettazione, da cicli omologhi che si intensificano senza nessun risultato, all'accettazione dell'altra, che è la figura della donatrice, che deve essere vista come una donatrice, non come una persona estranea che si mette all'interno della coppia, quindi chissà come sarà, chissà come non sarà, deve essere vista come un dono, no? Questa, la PMA, in questo modo. E poi anche mi sono occupata molto dalla parte dei figli, cioè i figli cosa bisogna raccontare, il segreto, oppure bisogna raccontare la verità, e in quale fascia di età è meglio iniziare. Che cosa dall'esperienza soprattutto americana, che cosa è venuto fuori? I figli soffrono, i figli vanno alla ricerca dei genitori biologici, quali sono le, appunto, un po' le... Io avrei una curiosità, sì, in merito proprio alla conoscenza o meno diretta dei genitori, dei donatori. Mi immagino, per i film che ho visto, la mia ignoranza in materia è proprio evidente, quindi si può scegliere se conoscere o meno il donatore o la donatrice, oppure normalmente restano sotto segreto? Allora, negli Stati Uniti il donatore di seme è open identità adesso, una volta no. Può scegliere se oppure no. Allora, in Italia no, in Italia non si può sapere chi è il donatore e non si può la donatrice. Come mai questo? Perché deve essere vista come un dono, e quindi insomma del destino oppure di Dio, non lo no, so. No, non dono del destino, cioè il dono di Gianluca di Dio. Allora, chi decide, no, di sottoporsi alla PMA eterologa può anche dire no, non mi va bene e vado all'estero, vado dove posso sapere nome, cognome. Ma infatti io mi chiedo, cioè questa cosa del dono, perché può essere un dono anche fatto da una persona che ha un nome, una storia, mi chiedo dove sia appunto il punto di vista della legge nei confronti di questa faccenda. Ah, la legge è multivariegata a seconda delle nazioni, a seconda... vi posso riportare quella italiana, come qui da noi, italiana, che insomma sei un po' ancora deve stare nell'anonimato. Perché l'anonimato? Perché molto spesso i donatori sono persone che hanno, ad esempio, al femminile hanno donato gli ovociti all'ospedale, e quindi da precedenti stimolazioni. Gli uomini hanno donato il seme anche loro. Precedenti stimolazioni. Con precedenti, non proprio stimolazioni, comunque ci siamo capiti. Quindi non si può sapere soltanto la fascia d'età, che di solito è massimo entro 35 anni, le persone selezionate. I donatori sono sani, persone sane, a quelle quali sono state fatte tutti gli esami del caso, non sono portatori di malattie ereditarie. Non c'è un Marty Feldman che prende la provetta AB normal per sbaglio. Dico, oh, no, scusate. Vengono fatti fare degli esami molto particolari. Okay. Però questi bambini possono avere degli altri fratelli. Quindi... fratellastri. Certo, è interessante questa cosa, abbastanza magica. Ci vuole un pezzo punk per lo metto subito. E prima dopo poi mi scateni con esatto. altre mille e quindi domande. È molto importante. La parte più importante, secondo me, del mio contributo è proprio la parte relativa al bambino, come affrontare, no? Perché non è un bisogno solo certo. narcisistico quello di avere figli. Bisogna pensare a questi bambini, come raccontare la loro storia. Yeah. So much hamburger, so much hamburger, tu vai scegliere. So much hamburger, so much hamburger, tu mangia tortellini, carne di bambini. Non voglio la grassa, non voglio la rossa. Mangia tortellini, corri pieno di bambini. Bologna la grassa, Bologna la rossa. Schifosissime salsine. Ti senti debole, ti senti male. Prendi tu che vau, che ti fai invigorire. Mangia tortellini con carne di bambini. Bologna la grassa, Bologna la rossa. Mangia tortellini con ripieno di bambini. Bologna la grassa, il motivo per cui ho messo sto pezzo Fedra, è perché la settimana scorsa sono stato al Vecchio Son, che è un posto fantastico. Ci sei mai stato al Vecchio Son? Il Vecchio Son, che è, adesso non mi ricordo dov'è, anzi c'è scritto qua, è qui a Bologna, in via Giovanni Antonio Sacco 14 a Bologna. E il motivo per cui ho voluto appunto prendere dei pezzi che hanno a che fare con i Vecchio Son, questo erano gli Into the Baobab, che sono un gruppo punk pesissimo di Bologna, perché l'angolo della menzione. L'angolo della menzione. Hai visto fatto. Come sono stato bravo? Perché le menzioni di oggi, a parte una cosa che succede, succedono tutte e due domani, parto con la seconda, che è appunto la presentazione di un nuovo vinile dei New Color, che tu conoscerai sicuramente, dopo anni di trepidante attese, migliaia di richieste da tutto il mondo, esce il primo 7 pollici dei New Color. I New Color sono un gruppo che fanno tipo funky, un po' un dance floor infame. 7 pollici, l'LP. No, non è un LP, è un 7 pollici. Il 7 pollici è un long. È un. Il 7 pollici, dai, è il 45, è quello piccolino. Il 7 pollici. Col buco grande. Col buco grande, no, dipende, perché se c'è anche col buco. Adesso ultimamente si fa col buco piccolo. Fatto sta che comunque, per chi non conoscesse New Color, loro usano. Vivono il soul e lo suonano quotidianamente, ritornando alla loro dimensione pop. Capito? Vabbè, basta così, perché mi state ridendo. Fatto sta che comunque domani sera dalle 21, 3 euro senza tessera, birra 2 euro, esatto, all'associazione musicale Vecchio Son. Salutiamo Stefano, Stefano. Ho detto Stefano? Ho detto Stefano. Volevo dire Steno. Ciao Steno. Esatto, grazie. Che è il coordinatore di tutto quanto, nonché padre spirituale di tutto il punk bolognese. Non so se lo sai, ma lui era cantante. Quando è che lo invitiamo, Steno? L'ho già invitato la settimana scorsa, adesso è solo una questione di trovare un buco per Bene. Lui e poi basta. E un poi 7 pollici per lui. un 7 pollici per lui. Fra l'altro hanno anche in Abbot, hanno fatto un 7 pollici, però non è tanto nuovo, l'ho comprato sabato scorso. Fatto sta che comunque domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete il link di Facebook, così sapete anche come arrivare in via Giovanni Antonio Sacco 14, perché non è facilissimo, tra via Vezza e via del Lavoro e così. Aspetta che nel frattempo devo anche fare così, non così, ma così, esatto, neanche, esatto. Vai, vai, è difficilissimo. E ti volevo dire che era, sì, meglio se leggevi. Era meglio se leggevo, è stato peggio, molto bene. Allora la prossima la leggo, va bene? Domani, ore 18.30, la o vuoi leggere tu? Io con la mia dislessia legga la tua, ce la fai. Allora, sabato 16 dicembre 2017 alle ore 18.30, yeah, locale 2, tutto attaccato, presenta la personale di Chiara Bettazzi. What about my objects? A cura di Alessandro Gallicchio. Chiara Bettazzi, sin dai suoi primi anni di attività, si è dedicata con costanza alla raccolta, all'analisi, alla manipolazione, alla composizione di oggetti. I processi di ibridazione materica innescati da questa ricerca sono confluiti in agglomerati scultorei che uniscono tecniche tradizionali e sperimentazioni più eclettiche. Ah, sperimentazioni più eclettiche, stavo per fare il percorso netto, mannaggia. Contraddistinte da un incessante desiderio di ordinamento. Locale 2, associazione no profit, Viazzo Gardino 12G, che è più facile da trovare, Bologna, esatto. Boh, www.locale2.it. E anche www.coxospaziale.blogspot.com, incredibile. Lo devo dire a Giovanni Luca Papalardo, che abbiamo intervistato la settimana scorsa. E invece io adesso così, tu adesso te ne vai, invece io invece, perché sono giustificata, c'entra anche con un po' con la menzione, che però non è menzione, perché okay, vado ad aiutare a realizzare un evento estremamente cardine. Ah, coxico stavo pensando, cardine invece, cardine. Sì, ovvero di una grandissima amica del coxo, sì, che vuole mantenere silenzio stampa e sì, verrà a raccontarci tutto non appena queste cose si saranno configurate e lei farà il suo ritorno al coxo e alle esternazioni artistiche con il botto. Con il botto? Botto. La devo farti così? No, era uno stacchetto. Però ci sta. Bene, allora Feda, ti salutiamo e poi secondo me comunque dobbiamo salutare anche tutti gli altri, perché siamo ma a... davvero secondo me sì, fammi un po', no, non sono molto bravo in matematica, però sì, secondo allora, me allora salutiamo tutti insieme. Non lo so, avevate qualcosa da aggiungere magari al volevamo io volevo una domanda, ma questo si trova su Amazon, cioè si può sì, comprare online, sì, fantastico, molto bene, per cui mi raccomando, andate tutti a comprare AAVV, Psicosociologia della Genitorialità. Volevo dire che è anche un'opera buona, perché parte del ricavato, cioè il nostro ricavato. Ciao Fedra, un bacio. Già si è fatto tutto pianino. E invece no. Ciao Coxici. Ciao. Il bello della diretta, non in diretta. Il nostro ricavato verrà devoluto a un'associazione che si occupa di bambini di Torino. Ah, fantastico. Hansel e Gretel, che fa dei progetti, fa tante cose, quindi... Ottimo. Per cui tutto questo lavorone che state facendo, che avete fatto e che state continuando a fare per la promozione del libro, lo state facendo per questa associazione. Fantastico. C'è anche una pagina Facebook. C'è anche una pagina Facebook. Ottimo. Psicosociologia della genitorialità. Fantastico, per cui lo troverete da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, così potete ordinarlo e... Poi ci saranno tante presentazioni in tutta Italia. Ottimo. Emanuele, dovevi aggiungere qualcosa? Il giorno 12 siamo stati anche in onda su Telestudio Modena, canale 5058 del satellite, e abbiamo parlato sempre di psicosociologia della genitorialità. Fantastico, no, stavo pensando al mio canale 5058, poi non ho il satellite, per cui dicevo come faccio, com'è che arrivo di solito fino al 43 dove ci sono i canali dei bambini. Anche canale 58 del digitale terrestre. Ah, fantastico, ah, molto bene. Bene, allora vi ringrazio tantissimo Sabrina Lattes, Emanuele Siringardi e Maria Letizia Rotolo per essere venuti qui con noi a raccontarci di questo fantastico libro di cui mi avete donato una copia, per cui doppiamente vi ringrazio e mi metterò a leggerlo immediatamente, magari riesco a essere anche un genitore migliore, cosa ne dite? Cioè, questo libro è versatile per tutti, per studiosi e per genitori e per chi si occupa, per insegnanti, un libro da regalare. Un libro da regalare per Natale. Sì. Fantastico, per cui se non sapete ancora cosa regalare per Natale, sapete di poter comprare Psicosociologia della genitorialità, un libro il primo titolo è un attimo così, cioè se mi regalassero questo dico oddio, mi stanno dicendo qualcosa, no? Comunque vabbè, bene, grazie mille, il coxo è finito, andate grazie. In pace e poi... Grazie Stefano per la tua ospitalità e per anche... ospitalità di Fedra. Grazie, grazie a voi. Noi ci rivediamo con la 201esima puntata, come al solito, venerdì prossimo alle ore 20, sempre sugli schermi, anzi no, sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1. Ciao ciao! Coxo